In voce, sono le 10:45. Cambiamo argomento. Parlavamo prima degli operatori sociali a Napoli, adesso ci spostiamo in un'altra parte del mondo e parliamo della Turchia e in particolare di una attivista femminista sociologa, pacifista, antimilitarista e scrittrice, che si chiama Pinar Selek e che è oggetto di una forte repressione. Si è costituito da pochi giorni un comitato di solidarietà nei confronti di Pinar. E ne parliamo con una compagna di Roma, che ci introdurrà brevemente questa campagna di solidarietà nei confronti, di Pinar, scrittrice che è oggetto, di un bersaglio a causa delle sue ricerche sociologiche, relative alle condizioni del conflitto armato tra la Turchia e il Kurdistan. Femminista che ha fondato una cooperativa di donne in Turchia e che si batte da sempre per i diritti civili delle minoranze, delle femministe, delle lesbiche, che lavora a fianco a transgender e che si batte da sempre per i diritti civili. Pronto, ci sei? Sì, ciao cara. Come Ciao, va? Ciao. buongiorno. Buongiorno. Ascolta, innanzitutto ti volevamo chiedere un po' come si è costituito questa rete di solidarietà che non, sia a Roma, che però è anche espressione di una rete di solidarietà che è internazionale. Sì, esatto. Le prime ovviamente a mobilitarsi sono state le compagne di Pinar. Il collettivo Amardi, il collettivo turco di cui appunto Pinar è una delle fondatrici. Dopodiché ci sono state le compagne francesi con le quali noi siamo in diretto contatto, che hanno questa mail solidarietépinarselec.france, mentre noi appunto invece ci chiamiamo per poterci contattare solidarietapinarselec.italia@gmail.com, ovviamente senza accento perché le mail sono stupide e non sanno distinguere gli accenti. E così si sta creando praticamente una rete internazionale, perché la cosa importante, la prima cosa da fare è poter essere presenti il 9 febbraio, quando si riaprirà il processo contro Pinar. Facciamo un attimino un passo indietro, raccontaci un attimo, Allora, brevemente un po' sì. la storia. La storia è questa: la motivazione di questo accanimento contro Pinar è perché, essendo una sociologa, lei era entrata in contatto con i capi del movimento curdo e le aveva fatto anche delle interviste, quindi insomma aveva raccolto anche parecchio materiale, ovviamente scomodo per il governo turco. Da questo momento è stata, con la scusa di un'esplosione che era avvenuta a Istanbul, che tra l'altro non era neanche, poi è stato riconosciuto che non era neanche un attentato, ma è stato un incidente, quindi in realtà non c'è proprio il motivo terroristico, se terroristico possiamo chiamare, comunque vabbè. È stata insomma una vittima di una sorta di Sì, cospirazione. è tutta una scusa per poter avere sia il materiale che lei ha raccolto, sia i nomi ovviamente dei capi curdi, che lei si è sempre rifiutata di dare, e per questo nei primi 2 anni e mezzo che ha fatto nei 2 anni e mezzo che ha fatto di prigionia, nonostante le torture, non ha mai confessato, insomma, non ha mai dato questi nomi. Ed è questa la cosa che il governo turco ovviamente non può Tollerare. accettare, che dopo 12 anni continua a insistere e a pretendere. Quindi Pinar è stata 2 volte prosciolta dall'accusa in tutti questi 12 anni, e nonostante ciò si vuole riaprire il caso per poterla rimettere in prigione con una sentenza di 36 anni, quindi quasi un ergastolo praticamente. Sì. E in questo momento appunto Pinar è stata invitata da un gruppo di intellettuali tedeschi, si chiama Ben. Sì. Ed si trova in Germania. Prima stava in Francia, però la situazione a un certo punto ha subito anche un attentato, praticamente è stata minacciata con un uomo con una pistola, quindi in questo momento si trova in Germania, ma nonostante ciò c'è sempre attiva questa rete di cui parlavo prima, che praticamente è internazionale. Sì. E quindi si riaprirà questo processo il 9, ma ci sai dire qualcosa rispetto a, per esempio, in Turchia? Allora, lei ha sempre difeso le minoranze. Certo, sì. E, siete in contatto anche con il gruppo, la cooperativa che ha fondato? Sì, le Marghi sono nostre compagne, insomma, le conosciamo personalmente e sono state le prime praticamente, insieme alle compagne francesi, perché insomma siamo compagne da sempre, diciamo così, no? Sì. E quindi noi siamo in contatto con loro e praticamente sì, il motivo ovviamente Pinar è un soggetto scomodo al di là di questa cosa sui curdi, perché appunto ha scritto anche l'ultimo libro che parla del ruolo della mascolinità. Esatto, parlaci un attimo anche di questo libro? Di questo libro? Questo libro ancora in Italia non è uscito, è uscito in Germania, il posto dove è stato tradotto, quindi non saprei dirti, cioè non avendolo letto, però so il tema principale, che appunto è questo della mascolinità e quindi all'interno dei militari, no? Sì. Quindi di questa forzatura e di questa, come dire, violenza usata come strumento di potere. Dico, questa violenza che è usata come... Sì, come unica educazione, diciamo così, no? All'interno. Sì, sì, sì. E questo ovviamente ha dei risvolti all'interno di tutta la società e le minoranze, cioè le donne, i transgender, i bambini, sono i primi che ne pagano le conseguenze, ecco. Questo penso, insomma, è molto a grandi linee il tema. Però appunto il ruolo di Pinar come compagna e come sociologa è appunto questo, di occuparsi della difesa delle minoranze in questo senso. Quindi è diventata un simbolo della lotta per la libertà e contro tutte le ingiustizie. Esatto, sì. Ti ringraziamo per questo intervento, faremo anche un approfondimento nei prossimi giorni. Sì, l'unica cosa che volevo dire... appunto sull'importanza di essere chi può, di essere presente a Istanbul il 9 febbraio, perché appunto l'importanza è far vedere al governo turco quanto ci sia una mobilitazione internazionale anche e anche le firme per la petizione. Sì, allora, che si possono... dimmi. Pronto? Sì, ti stiamo ascoltando. Sì, no, niente, la firma sulla petizione che si può trovare sul sito di questa organizzazione tedesca, PEN, io ti do il link, www.ps-signup.se, e là si può firmare la petizione per Pinar. Ok, allora lo ripetiamo, www.ps-signup.de. Perfetto. Grazie a voi. Ti ringrazio. E chi voglia le compagne che vogliono contattarci ci possono trovare al nostro indirizzo solidarietà@pinartelec.italia@gmail.com. Perfetto. Vuoi aggiungere qualcos'altro? No. La sorellanza è un'arma. Ciao. Perfetto. Cara. Ciao, cara. Ciao. E quindi lasciandoci con il motto "la sorellanza è un'arma", faremo un approfondimento anche nei prossimi giorni rispetto all'andamento di questo processo e rispetto al caso di Pinar Selek. Sono le 11:05 e vi lasciamo agli altri approfondimenti della mattinata.